Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La trovata del processo breve è un'idea disastrosa e irresponsabile che ha impatti su decine di migliaia di procedimenti. Premesso che il trattamento differenziato tra individui pregiudicati e incensurati è di fondo scorretto, è da evidenziare l'assurdità del dare la precedenza ai processi in cui sono coinvolte persone incensurate, pertanto di consueto a piede libero, mentre si toglie priorità ai processi in cui sono coinvolti individui pregiudicati, pertanto probabilmente chiusi in un carcere in attesa di giudizio. Ulteriore concetto assolutamente folle è quello di conferire velocità alla giustizia imponendo dei limiti ristretti di prescrizione. Se un'auto è in grado di andare al massimo a 200 km orari, non diverrà più veloce solo perché si è informato il conducente che deve andare a 300 km orari. La giustizia ha necessità di velocità e risorse. È assurdo porre un limite mentre la giustizia compie il proprio corso, mentre è corretto porre dei limiti ove la giustizia sia bloccata per periodi irragionevoli. Ho letto che processi quali ThyssenKrupp, Cirio e Parmalat andrebbero a rotoli se l'iniziativa andasse in porto. E chissà quanti altri piccoli e grandi drammi privati diverrebbero fumo e frustrazione per le vittime dell'ingiustizia. Gianluca. Sono quasi attonito di fronte ai discorsi astratti che sento fare da alcuni vostri ascoltatori. Mercoledì, per esempio, un ascoltatore ci ha messo al corrente della deriva giustizialista in atto in Italia da parte di uno dei tre poteri, quello giudiziario, appunto. Strano, pensavo. Pensavo che se davvero fosse così, in Italia i processi non durerebbero 10 anni. Nei tribunali, soprattutto quelli civili, non si dovrebbero attendere decine e decine di mesi per decidere su un confine o su una multa. Nell'ambito penale non basterebbe la mancata convocazione di un testimone per ritardare di un anno un processo anche su casi gravi, se non gravissimi. Non si rimanderebbero udienze di mesi perché è stato sbagliato un cognome o un nome. Insomma, se davvero fosse così in Italia, ci sarebbero fotocopiatrici funzionanti nelle cancellerie, ci sarebbero scanner, ci sarebbero turni di cancelleria coperti per tutto l'anno. La macchina correrebbe, giudicherebbe, sentenzierebbe, incorruttibile e spietata. Mi pare di ricordare che i processi istruiti a Mosca dallo spietato Wyszynski durassero molto poco. Ma in quel caso era il potere legislativo, lo stesso che da noi toglie i fondi alla giustizia e che la inonda di inutili leggi e leggine, a volere il funzionamento della macchina della giustizia senza intoppi. Roberto. Berlusconi vuole processi penali, non cause civili, che siano brevi, 2 anni per grado. E così eviterà ancora una volta la condanna e dirà che non è mai stato condannato. Bene, nella legge però ci sarà sicuramente questo comma. Sono inammissibili richieste di rinvio dell'udienza comunque motivate e da qualunque parte avanzate. Mi pare che sia il minimo. Altrimenti è come giocare una partita con 11 contro 5. Qualcuno ci ha già pensato? Giuseppe. La Commissione per l'efficienza della giustizia, un organismo del Consiglio europeo, ha documentato che l'Italia dispone di 1.292 tribunali, contro i 595 dell'Inghilterra, i 773 della Francia e i 1.136 della Germania. Abbiamo 13,7 giudici ogni 100.000 abitanti. La Francia ne ha 11,9, la Spagna 10,1 e l'Inghilterra 7. Ognuno dei magistrati italiani può contare su 4,2 addetti. I loro colleghi francesi ne hanno meno della metà. Le strutture dunque ci sono. E ci sono anche i soldi. L'Italia stanzia per la giustizia lo 0,26% del prodotto interno lordo, più ad esempio della Francia che si limita allo 0,19. Ogni italiano spende 45 euro l'anno solo per far funzionare i tribunali, 7 euro in più rispetto ai francesi, 17 in più rispetto agli inglesi. Mi sono permesso di inviarvi questi dati a beneficio di coloro che addebitano i problemi del malfunzionamento della giustizia italiana ad una carenza di strutture. Michele. Mi sono divertito ad elaborare la statistica dei governi che si sono succeduti dal 1948 ad oggi. Abbiamo avuto 55 governi con 24 presidenti del Consiglio diversi. Da pochi giorni Berlusconi ha battuto tutti i record. Oltre infatti ad aver presieduto il governo con il maggiore numero di giorni in carica, ha maturato anche il titolo di leader assoluto, cumulando, con tutti i governi che ha presieduto, la bellezza di numero 2.595 giorni di carica di Presidente del Consiglio, superando anche Andreotti, che ne aveva accumulati 2584. Non si può dire quindi che di tempo a sua disposizione per governare non ne abbia avuto. È possibile quindi impostare la discussione non tanto su quello che nei sogni della gente Berlusconi farà o promette ancora di fare, ma su quello che ha fatto. Berlusconi ancora oggi ci sommerge di numeri, percentuali che molto oscurano la discussione e che molto difficilmente si prestano ad essere immediatamente confutati anche dall'interlocutore più attento. Prendiamo il contratto con gli italiani e i suoi 5 punti. Fisco, sicurezza, pensioni, occupazione, infrastrutture. I risultati già nel gennaio 2006 erano di tutta evidenza, insufficienti rispetto agli obiettivi iniziali e nel contempo non erano nemmeno state attuate quelle riforme radicali di ammodernamento del paese che i vari Cicchitto, Quagliarella, Bocchino e Brambilla ancora in questi giorni continuano a propinarci come un traguardo che lì lì si sta per raggiungere, ma che mani esterne, ora il terrorismo, ora la crisi mondiale, ora la sinistra comunista, ci sposta sempre più avanti. Possiamo perciò davvero dire che questi 2595 giorni di governo Berlusconi ci hanno, se non cambiato, migliorato la vita? Forse no. Ma mi chiedo perché Berlusconi e i suoi, dopo 15 anni di governo, godano ancora di così tanto credito e consenso. Aniello, provincia di Napoli. Sento molto discutere a proposito del ponte sullo stretto di Messina. Da cittadino qualunque, mi domando se questa grande opera sarà davvero utile in proporzione agli enormi costi che comporterà. So anche che in Sicilia esiste un problema enorme riguardo all'approvvigionamento idrico e centinaia di migliaia di persone vivono con l'acqua razionata a causa delle perdite degli acquedotti vecchi e mal ridotti. E se gli investimenti per il ponte fossero impiegati per ristrutturare gli impianti e fornire acqua a chi ne ha bisogno? E se si provasse a chiedere ai siciliani cosa preferiscono? L'acqua è vita per le persone, per le coltivazioni, per gli animali. Il ponte potrebbe forse essere un bel fiore all'occhiello per qualche governo. Sergio. Egregio direttore, ascolto con grande piacere la lettura delle lettere da voi selezionate. Il contenuto di tali lettere mi rincuora. Vuol dire che in Italia vi sono ancora persone di buon senso. Ho però una domanda da farle. Queste lettere vengono portate a conoscenza di chi ci governa o restano lettera morta? È una delle tante manifestazioni di quella falsa democrazia che in Italia è ormai divenuta consuetudine oppure no? Mi spiego meglio. Se sotto una dittatura si pagano le tasse e non si può protestare, mentre in una democrazia si pagano le stesse tasse, potendo però protestare, non vedo quale differenza vi sia tra i due sistemi di governo. Se la democrazia è tanto sbandierata da ogni partito, al punto che qualcuno la inserisce nel nome del partito stesso, si limita a consentire ai cittadini di lamentarsi, come fanno gli ebrei al muro del pianto, non credo proprio che si possa definire democrazia. Purtroppo, essendo un pubblicista, ho notato a mie spese che ogni richiesta rivolta a chi ci amministra non viene accolta e credo nemmeno letta. Quindi la mia similitudine col muro del pianto credo sia più che valida. Da una parte c'è la cittadinanza che piange, dall'altra un muro. Spero tanto che mi risponda dicendo che ogni lettera viene inviata al ministro competente. Giorgio. Caro Giorgio, innanzitutto grazie per la sua attenzione e la sua stima, ma mi permetta di sottolineare che il paragone tra democrazia e dittatura mi sembra ingiusto e anche pericoloso. La democrazia non sta solo nella possibilità di protestare, sta anche e soprattutto nella possibilità di esprimere il proprio voto, di eleggere o di mandare a casa i propri governanti, di avere garanzie sul rispetto degli equilibri di potere. Certo, con molti problemi. Jacques Maritain nel 1943 scriveva che la tragedia delle democrazie moderne è che non sono ancora riuscite a realizzare la democrazia. Vede, caro Giorgio, la democrazia è come la libertà, va vissuta, conquistata, praticata giorno per giorno. E non deludersi se le vostre lettere, così come le risposte, sembrano perdersi nel vento. Le assicuro, anche i politici ci seguono e lo dimostra il fatto che spesso protestano, per quanto diciamo loro, attraverso la nostra radio. Caro direttore, nel romanzo La lettera scarlatta, la protagonista Esther viene esposta all'udibrio per aver commesso adulterio e deve sottostare alla pena di portare sul petto una A scarlatta, che vuole significare adultera, diventando così la pecora nera della comunità puritana del XII secolo. Oggi, terzo millennio, è come se gli abitanti di Montalto di Castro, non tutti, con il loro bravo sindaco in testa, avessero cucito la lettera S, che vuole significare stuprata, sul petto di Marinella, la ragazza che fu violentata da un gruppo di giovani un paio d'anni fa. Questa, infatti, sarebbe la sua colpa, di essere stata violentata. E per questo è costretta a vivere chiusa in casa, lontana dalla scuola, dalla quale si è ritirata in seguito alla violenza subita, e senza un lavoro. Un giorno voglio recarmi a Montalto di Castro per chiedere al parroco quante volte lui e gli assidui frequentatori della parrocchia sono stati a trovare Marinella. Quante volte il sacerdote in chiesa ha parlato in sua difesa. Sono certo che avranno cercato di aiutarla in tutti i modi. Potrebbero fare altrimenti dei buoni cristiani. Renato. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.